cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Nel complicato mosaico della guerra di Siria da oggi c'è una nuova tessera e di poco fa l'annuncio del Ministero della Difesa russo. I nostri bombardieri hanno compiuto nuove missioni in Siria decollando dalla base di Hamadan, una base che si trova nella Repubblica Islamica dell'Iran. Teheran e Mosca hanno sempre avuto un obiettivo strategico in comune, salvare il traballante e sanguinario regime di Bashar Assad, gli uni con l'aiuto dal cielo appunto e gli altri con l'invio di consistenti rinforzi da terra. Ma è la prima volta che i russi ammettono di aver usato basi nella terra degli Ayatollah. Come cambia la guerra in Siria? Questo è il tema del nostro approfondimento di oggi. Abbiamo sentito dalla collega della 7, i russi hanno bombardato la Siria partendo da basi iraniane. Per parlarne abbiamo con noi Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, Fabrizio Cicchitto, deputato di Area Popolare, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Partiamo da Alberto Negri. Tu hai definito oggi sul Sole 24 Ore la Siria una sorta di Jugoslavia del Medio Oriente. Come se ne esce da questa Jugoslavia, Alberto? Ma io penso che non se ne uscirà come dalla Jugoslavia fondata da Tito, che si disgregò negli anni 90 sotto Milosevic, nel senso che non sarà l'Occidente a decidere questa volta. A quell'epoca l'Unione Sovietica si stava disfacendo, era il 1989, era caduto il muro e cominciava la disgregazione della Jugoslavia, ma alla fine furono gli occidentali in qualche modo a decidere, non Mosca. Questa volta certamente Putin e la Russia ci metteranno una mano decisiva, una mano importante, anzi ce l'hanno già messa, perché hanno vinto, come dire, il primo capitolo di questo conflitto, cioè hanno tenuto in piedi insieme con gli alleati iraniani, con gli Hezbollah libanesi e con la collaborazione anche del governo sciita di Baghdad, Bashar Assad. Fabrizio Cicchitto, deputato di Area Popolare e presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. L'Europa sembra poi però messa all'angolo sia da Putin e sia da Erdogan. Insomma, c'è una situazione di stallo totale sulla politica estera dell'Unione? Ma direi che c'è una situazione di stallo totale sia della politica estera dell'Unione sia per certi aspetti della stessa politica estera americana, almeno per quello che riguarda il Medio Oriente. Io sono d'accordo con Negri sulla valutazione, nel senso cioè che è evidente che il pallino ce l'ha in mano la Russia di Putin, che ha giocato spregiudicatamente una carta decisiva, quella di sostenere a tutti i costi una dittatura, quella di Assad, che è poi alle radici di tutta la crisi umanitaria che stiamo oggi misurando. Quindi per sostenere una realtà che ha prodotto finora 250.000, 300.000 morti e milioni di emigrati, rifugiati e così via, l'Iran e in comune intesa con la Russia stanno appoggiando Assad con conseguenze umanitarie che sono davanti a noi. L'ISIS rischia di diventare una sorta di pretesto per questa operazione, che infatti vediamo che l'ipotesi di pace sostenuta dall'ONU sta registrando un grande stallo, ma tutto ciò deriva da un errore che a mio avviso è stato fatto nel 2013, in primo luogo proprio dagli Stati Uniti, ma anche dall'Italia e dall'Europa, di non sostenere la prima versione della rivoluzione siriana, che era laica, sostenuta dai poveri, da un pezzo dell'esercito, e quel mancato sostegno ha consentito da un lato lo sviluppo di ISIS e dall'altro lato il sostegno ad Assad, che è fatto appunto insieme dalla Russia e dall'Iran, e quindi una situazione, diciamo così, rispetto alla quale sia gli Stati Uniti che l'Europa sono totalmente emarginati. Io non do una valutazione positiva di questo, ma il fatto va registrato. Alberto Negri, abbiamo sentito anche Cicchitto, adesso il problema è trovare una soluzione intanto per Aleppo. Mosca ieri ha cercato di istituire un dialogo con Washington che però appare molto tiepida. Preoccupa soprattutto la parte sunnita che sta combattendo, appunto quelli che Fabrizio Cicchitto descriveva come dei ribelli laici che stanno combattendo contro Assad in questo momento e che sono la parte sunnita e sono sono, ricordiamo, i ribelli laici che non sono né dell'ISIS e che combattono Assad, quindi sono combattuti da tutti, dalla Turchia, dall'ISIS e da Assad, è così? Ma io ho una versione un po' differente di questa storia, avendola vista sul terreno diverse volte. Cioè, e la questione è questa: nel 2011 ci fu una, come dire, legittima rivolta popolare contro il regime di Assad. Questa rivolta cominciò ad Aran il 19 marzo 2011 e proseguì per alcuni mesi fino a giugno-luglio, e in quel momento era abbastanza evidente che fosse una rivolta popolare, che ci fossero molte correnti anche laiche e secolariste. Poi questo conflitto però ha presto deviato, è diventato molto presto una guerra per procura. In che senso? Nel senso che la Turchia, il fronte sunnita composto dai sauditi, dai qatarini, ha puntato sull'abbattimento di Assad. Si pensava addirittura nel 2011 che cadesse in pochi mesi, e per fare questo chi ha usato? Ha usato anche la legione straniera dei jihadisti. Dalla Turchia li abbiamo visti, intervistati, abbiamo testimoniato tutto questo, sono passati migliaia di jihadisti su quell'autostrada della Jihad e li ha portati dall'altra parte. In quel momento e in quella fase è cominciato, come dire, a sbilanciarsi questa opposizione, e lì hanno prevalso i gruppi più radicali, tra questi per esempio quello affiliato ad Al-Qaeda come Al-Nusra e poi sostituito dall'ISIS. Il 2013, sono d'accordo con Cicchito, è stata una svolta, perché in quella fine estate, tra agosto e settembre, gli Stati Uniti e la Francia avevano minacciato di bombardare il regime di Damasco, poi avevano ritirato la mano. Avevano ritirato la mano perché pensavano proprio che avrebbero prevalso sul campo proprio quei gruppi radicali islamici che erano diventati in qualche modo preponderanti e che poi presero come dire campo proprio con l'ISIS. Adesso qual è, perché Putin e l'Iran fanno questo tipo di pressioni anche militari? È per mandare un messaggio politico proprio sulla battaglia di Aleppo, cioè lì sono presenti gruppi come Al-Nusra, che è un gruppo affiliato Al-Qaeda, sono presenti altri gruppi di opposizione ad Assad. L'obiettivo di Teheran e di Mosca è di farli fuori, certamente non di preservarli, e questo è il conto che presentano dopo aver combattuto per tutti questi anni la Russia, l'Iran, gli Hezbollah eccetera a sostegno di Assad. È stato fatto un clamoroso errore di calcolo, e oggi la Russia e l'Iran puntano anche sulle vulnerabilità di questo Occidente. Una di queste, l'abbiamo visto, è proprio per esempio il leader turco Erdogan, che si sta cercando di mettere d'accordo con Mosca su che cosa? Sul fatto che Mosca possa dargli garanzie che ai suoi confini non nasca per esempio uno Stato curdo. La coalizione guida americana utilizza. Abbiamo perso Alberto Negri. Fabrizio Cicchitto, deputato di Area Popolare e presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Come se ne esce? Abbiamo sentito Alberto Negri parla di una sorta di Jugoslavia. Poi dal conflitto jugoslavo si uscì. Ecco, in questo caso si deve smembrare la Siria in più stati, come è successo con la Jugoslavia, secondo lei? Ma è difficile in questo momento fare una previsione di questo tipo. Voglio ritornare sull'analisi di Negri, perché siamo abbastanza d'accordo, nel senso cioè che poi in politica estera e in politica militare le cose non avvengono in un giorno. L'errore, e io ribadisco che è stato un errore, è stato commesso tra il 2011 e il 2013 di non sostenere la versione laica della rivoluzione siriana. Poi certo, in assenza di questo sostegno è avvenuto il peggio da un lato e dall'altro. Dal lato dei rivoltosi, perché si è affermato con appoggi finanziari e militari, si è appoggiata la componente jihadista fino all'ISIS, e dall'altro lato sono intervenuti massicciamente gli iraniani, gli Hezbollah e la Russia di Putin. Adesso innanzitutto è da vedere se si riesce a stabilire una fase, diciamo così, per quello che riguarda Aleppo, di una situazione pacificata che consenta a quelle popolazioni di non essere ulteriormente massacrate. E poi in una realtà di rapporti di forza molto peggiorati, di vedere se gli Stati Uniti riescono, diciamo così, a stabilire una equilibrata situazione per cui non c'è un'assoluta prevalenza di chi finora sta prevalendo, che è l'asse russo-iraniano che ha agganciato anche la Turchia, dal quale io però non prevedo nulla di buono per quello che riguarda gli equilibri internazionali. Quindi siamo in una situazione assolutamente non facile, accentuata poi dal fatto che le elezioni presidenziali americane fanno sì che gli Stati Uniti, come dire, stanno in campo con una mano sola. Un po' in modo defilato. Alberto Negri, chiedevamo appunto a Fabrizio Cicchitto come se ne esce, perché la fine della guerra sembra ancora molto lontana. Ma dunque, gli obiettivi degli attori in campo non sempre coincidono, anzi molto spesso divergono, no? Se noi analizzassimo per esempio anche la stessa posizione di Russia e Iran, che sono alleati, sono leggermente differenti. Per esempio gli iraniani si sono spesso pronunciati per mantenere l'unità, come dire, dell'entità siriana, dello Stato siriano in disgregazione in questi anni, come è stato in disgregazione quello iracheno. I russi probabilmente potrebbero essere anche più possibilisti, anche se poi adesso vogliono difendere soprattutto le loro basi militari. L'8 giugno a Teheran c'è stata una riunione tra i ministri della difesa iraniano, tra quello russo e quello siriano, e si sono anche esaminate alcune proposte che sono state avanzate dagli americani in questi mesi, una specie di suddivisione delle zone di influenza. Gli Stati Uniti offrono alla Russia, all'Iran e a Damasco la possibilità per gli Stati Uniti di avere una zona di influenza nel nord e per il regime di Damasco e i suoi alleati nel centro-sud del paese. Ma è possibile questo? Fino a che punto, per esempio, si possono dividere le popolazioni, no? E soprattutto cosa fare per esempio di 4-5 milioni di profughi che poi potrebbero anche un giorno rientrare, e rientrare però dove? In città distrutte come quelle di Aleppo? Suddividere questa volta, e questa è la differenza con la Jugoslavia degli anni 90, suddividere il territorio in stati o in entità federali o confederali appare più difficile. Per esempio la questione curda che dicevo prima è praticamente dirimente, discriminante. La Turchia non vuole vedere un'entità autonoma turca curda ai suoi confini, che potrebbe in qualche modo calamitare l'irredentismo anche dei suoi curdi. Bene, tutti gli attori, come si vede, hanno obiettivi politici molto diversi, e dividere questo paese sarà assai difficile. Probabilmente ci troveremo in situazioni militari che determineranno sfere di suddivisione e di influenza che potrebbero restare, come dire, per molti anni come una spina conficcata nel fianco del Medio Oriente, a destabilizzare e a rendere ancora più incerta la situazione in tutta quella regione, ma anche alle porte dell'Europa. Alberto, so che ci devi lasciare, volevo chiederti una cosa. Secondo te, come dice l'analista israeliano Yoram Schweitzer oggi sulla stampa, è necessario un intervento truppe di terra per mettere fine alla guerra? Non so, non ho letto questo articolo, vorrei però ricordare, come dire, sommessamente, che lo stesso Israele è coinvolto in questo conflitto, perché occupa dal 1967 le alture siriane del Golan e quindi è estremamente interessato a mantenere e magari addirittura, come dire, estendere questa sua posizione strategica da una parte, e dall'altra a contenere gli Hezbollah libanesi. Cioè, come vedete, tutti gli attori che sono in campo hanno interessi loro e precipui. Forse e questo è solo un augurio, però certamente non è una sicurezza. Una conferenza internazionale a questo punto si riterrebbe indispensabile per esaminare davvero tutti gli interessi in campo e in qualche modo trovare, come dire, un punto di convergenza. Attenzione però, perché più va avanti la situazione e più alcuni di questi attori si sentono minacciati. Guardate la Turchia di Erdogan, che, come dire, fa il pendolo tra est e ovest, sperando insomma di salvare i risultati dei calcoli sbagliati di questi anni del suo leader. Chiaro, linea alla pubblicità. Ma cos'è quest'estate? 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Stiamo cercando di capire come si può uscire dalla guerra in Siria. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, è successo qualcosa di nuovo ieri? Ci sono stati dei caccia russi che si sono alzati in volo da basi iraniane. Come cambia in questa prospettiva la guerra in Siria? Beh, Russia e Iran hanno da un anno attivato un coordinamento di intelligence nell'ambito dell'asse Iran, Iraq, Russia, Siria e Hezbollah. La novità è che per la prima volta, perlomeno ufficialmente, l'Iran concede le sue basi ad un altro paese e le concede a un paese con il quale ha avuto tensioni significative negli ultimi 25 anni. Cosa cambia? Per la Russia è sicuramente un vantaggio operativo, riduce di 2/3 il tempo di volo per arrivare ai territori dove va a bombardare, ma credo che ciò che sia più importante è il significato politico, è il simbolo del ritrovato ruolo della Russia nella regione. Noi pensiamo che fino a 3 anni fa la Russia poteva al massimo bloccare le iniziative americane grazie al voto in Consiglio di Sicurezza. Poi c'è stato l'intervento in Siria, il ravvicinamento dei giorni scorsi con Erdogan, il dialogo con Israele e nei prossimi giorni l'incontro con gli oppositori di Assad. Cosa porta tutto ciò? Porta a una situazione in cui la Russia non solo vuol bloccare gli americani, ma vuol dettare la linea agli americani. Luca Futuzone, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera. Come vedete voi del Movimento 5 Stelle quello che sta avvenendo in Siria e questo nuovo asse tra l'Iran e Mosca? Buongiorno, questa situazione in un certo senso era, non dico scontata, ma prevedibile, nel momento in cui la Russia si è trovata tagliata fuori in alcune situazioni, ha dovuto creare un proprio asse ed era quasi scontato quello con l'Iran. Quindi in un certo senso non solo l'Italia naturalmente, ma tutti i paesi occidentali attraverso questo mancato dialogo raffreddato, potremmo chiamarlo così, con la Russia, hanno anche un po' spinto tutta questa situazione. E da sempre, insomma, stiamo vedendo delle dinamiche che abbiamo visto anche in altre occasioni, certo diverse perché ogni territorio è a sé stante, ma questa contrapposizione sempre fra Russia e Stati Uniti portano appunto a deblocchi in vari territori e quindi possiamo vedere come la Russia si muove per i suoi interessi, gli Stati Uniti si muove per i propri interessi e alla fine si creano queste fazioni. Certo, ora anche l'Iran si è inserito e reclama il suo ruolo da big player dell'area, quindi anche questo in un certo senso era scontato. Luca Frusone, deputato del Movimento 5 Stelle, c'è stato anche, parlando di politica interna, una breve parentesi, un allarme sui jihadisti di nuovo che vogliono venire a colpire in Italia. Poi stamattina il ministro degli interni Angelino Alfano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui però dice attenzione a non confondere ovviamente Islam con terrorismo e dice anche va bene il burkini in spiaggia perché poi alla fine queste sono cose pretestuose, non vogliamo mostrare il fianco ai terroristi. Voi che ne pensate di queste posizioni? Noi concordiamo con il fatto che non si può fare una uguaglianza tra Islam e terrorismo. Questo lo abbiamo sempre detto e anzi, semplificare in questa maniera fa proprio il gioco dei terroristi. Però d'altra parte si deve identificare meglio che cos'è questa minaccia terroristica in Italia, perché appunto non si parla di Islam ma di islamisti E devo dire che l'Italia purtroppo non si sta muovendo moltissimo dal punto di vista della selezione, come posso dire, degli interlocutori. Noi vediamo come, a differenza per esempio della Germania, che più volte ha ha preso di mira un pochino le politiche ad esempio dell'Arabia Saudita all'interno del proprio paese, di finanziamento di alcune moschee più radicali che incitavano alla radicalizzazione. In Italia tutto questo non si è visto, non si è mai vista una parola contro l'Arabia Saudita e la sua politica, e questo un pochino ci fa pensare. Alberto Zanconato, giornalista, è stato corrispondente dell'ANSA dall'Iran per 14 anni, appena pubblicato L'Iran oltre l'Iran, realtà e miti di un paese visto da dentro. Adesso, Alberto, sei a Beirut, giusto? Sì, buongiorno, sì. Ecco Alberto, qual è la tua impressione di questi raid aerei russi che partono dall'Iran? L'impressione è quella di una Russia e di un Iran che hanno scoperto completamente le carte a questo punto. C'è non solo una cooperazione militare che andava avanti in Siria da anni, in Siria c'è una presenza anche di Pasdaran iraniani, sebbene nel ruolo ufficiale di consiglieri, ma si tratta di militari in prima linea, perché molti di loro, compresi dei generali, sono stati anche uccisi. E c'è questa presenza, come c'è la presenza del resto anche ormai di truppe speciali francesi, britanniche, americane, ormai riconosciute, ma questa concessione della base militare, della base di Hamadan alla Russia, rappresenta una vera e propria svolta strategica, cioè la Russia che fa vedere agli Stati Uniti che l'Iran è territorio proprio nella grande partita medio orientale, e una risposta al tentativo degli Stati Uniti, al tentativo di Obama di riavvicinamento, che ricordiamo è partito lo scorso anno con l'accordo sul nucleare con l'Iran, che aveva provocato anche molti nervosismi tra gli arabi, in particolare l'Arabia Saudita, e si pensava che gli Stati Uniti potessero addirittura, la presidenza Obama come ultimo risultato, potesse arrivare a un riavvicinamento anche strategico con l'Iran per agire sui vari punti di crisi della regione. Invece questa è la risposta di Putin, che l'Iran appunto rimane territorio tra virgolette russo, e soprattutto una pedina essenziale nella politica strategica russa in Medio Oriente. Alberto, da Beirut, quali sono le impressioni? Quanto durerà ancora la guerra? Perché non se ne vede l'uscita, non si vede la fine, no, di questa matassa. E soprattutto, come giornalista, vedi impossibile levitare l'intervento di terra? Un intervento di terra, nonostante tutte i proclami che si possono fare, magari a volte anche a scopi di politica interna nei vari paesi occidentali, credo che l'intervento di terra è l'ultima cosa a cui ogni paese occidentale, ogni governo occidentale pensa. E nei giorni scorsi, c'è stato 2 o 3 giorni fa, un'affermazione del ministro della difesa russo secondo il quale continuano dei colloqui fruttuosi con gli Stati Uniti per arrivare ad un accordo, a partire da Aleppo, che è il vero punto strategico oggi, la vera battaglia strategica per i destini della Siria. Certo è una matassa che, come dicevi, rimane molto ingarbugliata, degli interessi stranieri di potenze regionali, a partire dall'Iran e dall'Arabia Saudita, e poi potenze a livello mondiale, Stati Uniti, Francia, Russia, che rimangono molto forti e che fanno essere pessimisti per una risoluzione di questa crisi. 5 anni di guerra non sono bastati ad arrivare ad un accordo, e 5 anni non sono bastati, se evidentemente è veramente una situazione complicata, E purtroppo, dal mio punto di vista, no, non sono molto ottimista, anche per quello che si sente qui nella regione, a Beirut, che è a ridosso della linea del fronte, a un'ora di macchina da Damasco, e l'aria che si respira certo non è un'aria ottimista. Luca Frusone, deputato del Movimento 5 Stelle, Commissione Difesa alla Camera. È mancata l'Unione Europea in questa partita? Insomma, l'Europa sembra sempre più messa all'angolo? Ma quando si tratta di politica estera e di difesa, l'Europa da sempre è piuttosto spaccata, questo è un dato di fatto, quindi perché i vari paesi tra di loro hanno degli interessi diversi, non solo in Siria, ma vediamo anche in Libia che cosa sta accadendo con la Francia, che fa semplicemente i suoi interessi, mentre l'Italia e la Germania cercano, soprattutto l'Italia, di capire che cosa devono fare. Quindi sì, l'Europa è mancata, ma perché manca una politica estera unitaria dell'Europa e probabilmente non ci sarà mai, visto che ci sono questi nazionalismi, ci sono questi interessi nazionali più che nazionalismi ben diversi. Guardiamo anche gli esempi storici, la Libia del 2011. Beh, quello semplicemente la storia dovrebbe fare da maestra, quindi non ci stupisce nemmeno questa assenza dell'Unione Europea, perché proprio non c'è stato, come posso dire, nemmeno un interesse, non c'è stato nemmeno una voglia di arrivare a una risoluzione in Siria da parte dell'Unione Europea. Diverso per i singoli stati, e guardate, basta vedere la coalizione anti-ISIS, non composta naturalmente proprio da tutti i paesi europei, ma di quelli che avevano più interessi nella zona. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, come se ne esce e soprattutto dopo questa intromissione molto forte della Russia, che praticamente ha risollevato le sorti di Assad, si può aggiungere a varie zone di influenza, come suggeriva prima Alberto Negri del Sole 24 Ore? Ma di fatto ci sono già le varie zone di influenza, nel senso che la Russia come l'Iraq sono ormai un mosaico sempre più cristallizzato di zone di influenza, quella di ISIS, ahimè, quella curda, quella del governo, quella dei ribelli in questo momento in difficoltà. Il problema è che questo rimarrà, e qui sono d'accordo con Negri, più che altro non con una struttura federale, quindi con un assetto che formalizza le zone di influenza, ma rischia di rimanere con una sorta di conflitto congelato, di tanti conflitti congelati. Ne abbiamo a lungo parlato di conflitti congelati a proposito dell'Ucraina. Qui abbiamo dei paesi che al loro interno, parlo di Siria e di Iraq, hanno diversi conflitti congelati. Volevo aggiungere una battuta sulla Russia. Sicuramente la Russia ha il vento in poppa in questo momento, sta dettando la linea e vuole sempre più dettare la linea, come sta facendo sul negoziato con gli americani, quando dice lo facciamo l'accordo congiunto per bombardare insieme, ma lo facciamo limitato ad Aleppo, che è una provocazione, perché ad Aleppo è proprio il luogo dove la impossibilità di distinguere fra terroristi veri e ribelli è più forte, sono mescolati sul territorio e stanno combattendo assieme. Ma questa posizione della Russia col vento in poppa, non possiamo nasconderci che ha anche dei rischi prospettici. La Russia, anche con questa operazione di accordo operativo con l'Iran, sancisce, formalizza il suo associarsi all'asse sciita, e lo fa in una regione, questa medio orientale, dove il conflitto in corso è un conflitto sunnita sciita, e quindi si pone in uno dei due versanti facendo ciò che gli americani non hanno voluto fare. Gli americani hanno cercato di tenere, hanno anche tentennato una posizione abbastanza equidistante, sì l'accordo con l'Iran, ma subito l'assicurazione all'Arabia Saudita. E questa posizione sciita della Russia, in un contesto appunto così complicato, può essere pericoloso a lungo andare, così chiudo, come può essere pericoloso per l'Iran questo riavvicinamento esplicito con la Russia. L'Iran ha fatto il negoziato sul nucleare, ma il negoziato sul nucleare non è ancora chiuso per quanto riguarda gli aspetti economici, e tutto dipende dalla posizione degli americani. Trump o Hillary Clinton, fra qualche mese, entrambi avrebbero difficoltà ad andare avanti nel riavvicinamento all'Iran, ad un Iran che si allea militarmente in modo esplicito con la Russia. Alberto Zanconato, allora ti rivolgo la domanda di quello che ha detto adesso Paolo Magri. È così? Ci sarà una difficoltà da parte dell'Iran, se continua questo asse con la Russia, a trattare poi sul nucleare con gli Stati Uniti? Credo di sì, anche perché il tanto decantato accordo sul nucleare dell'anno scorso in realtà non si è concretizzato nella parte più importante, come diceva Magri, cioè nella parte economica. E soprattutto sono state tolte le sanzioni internazionali all'Iran, ma non sono state tolte le sanzioni bancarie americane all'Iran, e il flusso di finanziamenti rappresenta la linfa vitale per la ripresa di ogni collaborazione, di ogni investimento anche europeo, anche delle aziende europee in Iran. Quindi è questo soprattutto che l'Iran contesta, di cui accusa gli Stati Uniti, cioè di non aver in sostanza mantenuto fede all'impegno e di non aver creato le condizioni perché l'accordo sul nucleare dell'anno scorso portasse a dei veri risultati economici. Dal punto di vista economico l'Iran continua a soffrire, gli iraniani continuano a soffrire, i benefici dell'accordo dell'anno scorso non si sono ancora fatti sentire per la maggior parte degli iraniani, e quindi a buon gioco la fazione, la parte del regime che era contrario, comunque ha paura di questo accordo, cioè soprattutto i vertici dei Pastaran legati a Khamenei, hanno buon gioco nel dire che l'accordo non è servito a nulla, che gli Stati Uniti sono i soliti traditori di cui non ci si può fidare, e è sempre più in difficoltà il presidente Hassan Rouhani, che ricordiamo fra meno di un anno dovrà affrontare l'esame delle urne e quando si ripresenterà candidato per cercare di ottenere un secondo mandato. Quindi è una situazione sicuramente molto difficile, che va alla fine a scapito di quell'uomo Hassan Rouhani su cui molti in Occidente stavano o avevano puntato. Alberto, un'ultima domanda sull'Iran. C'è l'impressione, almeno in Occidente, che ci sia un Iran spaccato in due, tra la vecchia generazione che ha fatto la rivoluzione e quella nuova, invece i giovani, perché è un paese molto giovane, dove la maggior parte della popolazione insomma è giovanissimo quasi, che vogliono invece un Occidente più vicino, che si sono quasi occidentalizzati. È così? Occidentalizzati secondo me è una parola grossa, molto fuorviante, nel senso che in Iran c'è una cultura molto tradizionale di cui l'Islam è solo un aspetto, l'Islam sciita è solo un aspetto, e la rivoluzione per esempio del 1979, se vogliamo andare al passato, è stata dettata non solo dall'Islam, è stata guidata non solo dall'Islam, dalla figura di Khomeini, ma anche da vari gruppi, partiti laici, marxisti, di sinistra, eccetera, ed è ha avuto come motore non soltanto l'Islam, ma anche la voglia di indipendenza, di rivalsa contro le grandi potenze che avevano sempre condotto una politica, o in molta parte una politica di sfruttamento nei confronti dell'Iran. Quindi sicuramente c'è un Iran giovane che vuole cambiare, vuole più democrazia, questo sì, penso di poterlo dire, però questo non significa avvicinarsi o prendere come modello automaticamente l'Occidente. Quindi insomma la situazione è un pochino diversa. Gigi Donelli, capo redattore di Radio 24, che si occupa di esseri, esperto di Russia. Abbiamo visto questa differenza in questa guerra, i caccia russi si sono alzati in volo dall'Iran. Qual è l'atmosfera a Mosca e secondo te perché Putin ha cercato disperatamente quest'asse con Teheran? Ah, buongiorno Elisabetta, un saluto agli ascoltatori. Ma sicuramente Putin è più che mai un leader, come dire, mobile su uno scacchiere che è altrettanto mobile. Abbiamo sentito anche negli interventi precedenti quanto, insomma, ovunque domini una diffusa incertezza, e questo vale anche per dei leader apparentemente molto solidi come appunto il presidente russo. Quindi perché cercare un rapporto con l'Iran? Beh, le ragioni sono davvero molteplici. Da una parte non bisogna mai dimenticare, a mio avviso, che una figura come Putin, che ripeto è molto popolare, molto forte, viene spesso giudicato sul fronte interno, potrei quasi dire sul mercato interno, sul fronte dell'economia. cioè i russi hanno diciamo sposato la linea politica di esteri del presidente Putin, ma non di meno fanno i conti con i loro problemi economici interni. La sintesi può essere il rapporto tra rublo e euro e il prezzo del barile del petrolio, che come sappiamo sono molto sfavorevoli rispetto a pochi anni fa. Quindi l'Iran significa da un lato ovviamente queste operazioni militari che cambiano le modalità e le possibilità che vengono offerte a degli strumenti di guerra, come appunto il Tupolev-22 che possono entrare in azione da una posizione molto più favorevole, e come ha detto anche l'ammiraglio responsabile per questa operazione di volo, permetteranno di risparmiare molto, che sembra un'affermazione abbastanza paradossale, ma bisogna tener conto che un tipo di operazione per i russi in Siria, mi riferisco, a dei costi enormi, soprattutto se consideriamo che non è certo l'unico fronte aperto. Quindi diciamo ci sono un sacco di buone ragioni per avere buoni rapporti con la Turchia e con l'Iran. Ma perché Putin ha deciso di sposare un asse sciita, per esempio, per combattere quella che è una minoranza sunnita all'interno della Russia, della Federazione? Ma allora non credo che questa sia la chiave. Allora, se vogliamo parlare un momento di quello che è il rapporto appunto col mondo islamico all'interno della Russia, forse vale la pena ricordare che la Russia è un paese in cui la prima minoranza, appunto dopo i russi, la prima minoranza numerica sono proprio i musulmani. È un tema che si affronta abbastanza raramente, tanto che addirittura i numeri dei musulmani russi non sono molto chiari. Secondo Reuters sono il 14%, secondo gli studi diciamo moscoviti sono circa l'8%. Beh, se facciamo una media di questi numeri abbiamo una minoranza che equivale alla presenza dei neri americani, quindi degli afroamericani. Insomma, sono numeri molto importanti, numeri che non riguardano solamente il Caucaso, ma che riguardano una diffusa presenza di musulmani, per lo più sunniti effettivamente, all'interno del paese. Insomma, un rapporto anche attento a questa minoranza è essenziale per qualsiasi presidente russo. Quindi quanti milioni di musulmani sunniti vivono in Russia circa? Tanto per... Beh, insomma, se la popolazione russa è di 135 milioni in crescita, un 10% di media, stiamo calcolando 13 milioni di persone circa. Attenzione, essere musulmano in Russia è qualcosa che è legato a doppio filo alla storia di questo paese, per questo dicevo che i numeri sono anche così mobili, perché anni di Unione Sovietica ha fatto sì che molti musulmani d'origine o turcomanni di Russia non si dichiarino nemmeno tali, ma nel momento in cui naturalmente diciamo il mondo va verso posizioni di radicalizzazione o di rinazionalizzazione, beh, allora certe radici vengono alla luce indipendentemente dalla volontà. Mi spiego, un classico caso che viene rappresentato dai media russi è il trattamento non certo favorevole dei soldati diciamo del sud, del Caucaso, piuttosto che i tatari o i bashkiri, appunto, che sono musulmani di Russia, all'interno dell'esercito. Sono abbastanza esempi classici che ricordano come la maggioranza russa spesso abbia un atteggiamento appunto discriminatorio, possiamo definirlo così, nei confronti delle minoranze. Per questo oggi essere musulmani in Russia non rappresenta diciamo un particolare problema o un conflitto specifico, ma è un potenziale. Ci sono 5.000 associazioni musulmane di varia natura all'interno di un paese come la Russia, quindi Putin sicuramente deve fare i conti con questo mondo. Magri, direttore dell'ISPI, abbiamo sentito questa lettura anche della popolazione musulmana russa che incide sulle scelte di Putin. Lei concorda? Concordo che sia una presenza importante, non mi pare stia incidendo molto sulle scelte di Putin, perché avendo 10 milioni, 13 milioni di i suoi cittadini ed elettori che sono sunniti, anche se con il significato particolare che può avere, come diceva Donelli poco fa, in Russia, e fare un asse con un fronte sciita non è esattamente la ricetta migliore. Ma questo quindi aggiunge a quanto dicevo prima sui rischi prospettici di questa alleanza anche la dimensione interna. Tra l'altro noi sappiamo tutti che uno dei forti contingenti di foreign fighters, noi ci preoccupiamo di quelli italiani, di quelli europei, ma una forte presenza viene proprio dalla Russia, ed è stato tra l'altro questo uno dei motivi che Putin ha portato per giustificare il suo intervento forte nello scacchiere medio orientale a contrasto dell'ISIS: vado a riprendermi i miei cittadini, vado a distruggere delle persone che potrebbero tornare in patria e compiere attentati. Quindi è un quadro molto, molto complesso anche per Putin. La storia è piena di alleati e di posizioni di un momento che diventano poi nemici o problemi qualche anno dopo, a cominciare dall'Afghanistan, dai talebani ed altro. Alberto Zanconato, giornalista, ricordiamo, corrispondente dell'ANSA dall'Iran per 14 anni. Qual è la situazione delle minoranze religiose in Iran? Le minoranze è sempre una situazione delicata, un tasto delicato, anche perché le minoranze religiose coincidono con le minoranze etniche. Va ricordato che anche l'Iran è un paese multietnico e quindi le principali minoranze, i curdi nell'ovest, gli arabi nel sud-ovest, i baluci nel sud-est, sono anche minoranze sunnite. E queste minoranze hanno dato particolari problemi alla Repubblica Islamica nel corso della sua storia, ma anche con episodi di terrorismo organizzato, in particolare in Baluchistan e in Khuzestan nel sud-ovest negli anni 2000, durante la presidenza di Ahmadinejad. E poi queste organizzazioni terroristiche sono state però messe sotto controllo e ultimamente, nonostante la guerra in corso che sconvolge tutta la regione tra sunniti e sciiti, o io preferirei dire tra persiani e arabi, perché poi la religione può essere usata anche per altri scopi strategici di ambizioni nazionaliste, di ambizioni di predominio sulla regione. E nonostante questa guerra in corso, però l'Iran è riuscito a tenere sotto controllo eventuali tentativi di organizzazioni terroristiche di colpire sul territorio della Repubblica Islamica, e quindi stranamente, devo dire, non ci sono stati attacchi di una qualche portata significativa sul territorio iraniano, nonostante questa guerra in corso che vede l'ISIS al di là del confine iraniano in Iraq, e che però non riesce evidentemente a colpire in Iran. Io ringrazio allora Alberto Zanconato, giornalista, corrispondente dell'ANSA dall'Iran per 14 anni, appena pubblicato L'Iran oltre l'Iran, realtà e miti di un paese visto da dentro, Castelvecchi Editori, Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Luca Frusone, deputato Movimento 5 Stelle, Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24, Alberto Negri, nostro giornalista del Sole 24 Ore, Fabrizio Cicchitto, deputato di Area Popolare, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Nella seconda ora parleremo di maleducazione, linea al GR. Il prosecco e i lombrichi, la spara parmigiano e i pomodori idroponici, ma anche fritture di meduse o risotti di alghe e le olive spremute con gli ultrasuoni e i frutteti verticali. Tutto questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi, Chiara Albicocco, vi aspettiamo dal lunedì al venerdì alle 15 qui su Radio 24. Ma cos'è quest'estate? Dai, segui il tir, gira qui, sbatta là. Scusa, mo zitta un po' che sta a dir. La morte a bici. Segui il tir, giro qui, svolto là. Svento, amo, fido, la staffa qui. Quando l'educazione va in vacanza. 800-24-0024 per i vostri interventi, 349-238-6666, un remake di una famosa canzone per sorridere ma anche un po' fare il punto sulla situazione italiana e non solo. Abitudini insopportabili, scrive Eleonora Barbieri sul Giornale, abitudini insopportabili come parlare ad alta voce al telefonino in spiaggia, portare la musica in spiaggia, giocare con i videogiochi dentro un autobus molto affollato a decibel insostenibili. Eleonora Barbieri, hai dato lo spunto per questa seconda ora. Che cosa fanno gli italiani che è veramente insopportabile? Buongiorno. Fanno tante cose, fanno tantissime cose anche molto piccole, gesti apparentemente insignificanti che però agli altri recano tantissimo disturbo. Chiaramente sono partita dall'esempio della spiaggia perché in questo periodo siamo in tanti magari al mare e prima di tutto la posizione del lettino. Il lettino invade sempre lo spazio dell'altro, che però non ha nemmeno la possibilità di interloquire, perché di solito chi sposta il lettino poi si sdraia, si mette le cuffie e cade in trance. Si lascia al sole ad abbronzare fino a che magari a un certo punto gli squilla il cellulare, allora si alza, inizia a parlare al cellulare, va sulla battigia a chiacchierare sempre ad alta voce e poi torna a sedersi. Magari nel frattempo i suoi figli stanno a loro volta spargendo la sabbia in giro, stanno giocando coi giochi degli altri bambini e li spargono per tutta la spiaggia, così poi uno se li dimentica, non riesce più a ritrovarli. Oppure parlano con i vicini mentre i vicini stanno facendo qualcos'altro. Insomma, oppure un altro grande classico è lo spray da solare che viene spruzzato anche al vicino di ombrellone, che viene coinvolto nella spalmatura della crema. Oppure anche quando si sgrulla l'asciugamano, generalmente la sabbia, non si sa perché il vento in quel momento spira e la sabbia finisce sempre nel lettino del vicino. Sempre, regolarmente nel lettino del vicino. Oppure quando mangiano i vicini di ombrellone, anche lì, quando poi tutte le briciole o i residui di cibo, se finiscono in terra, chissà dove finiscono, mai nel loro ombrellone. E poi a proposito di mangiare, c'era un altro esempio, insomma, di abitudine particolarmente sgradevole, che è quella di chi mangia con la bocca aperta, perché specialmente quando si è molto vicini si sente il rumore di chi mangia. Allora uno che cosa può fare? Può solo alzarsi e cambiare posizione, non ci sono molte altre alternative. E quindi insomma sono tante. E poi chi fuma, magari anche lì c'è questo fatto di fumare poi sul lettino e dall'altra parte arriva questa ondata di fumo, che non certo. È molto, molto, insomma sono varie le situazioni. La situazione secondo te in Italia è peggiorata con l'andare del tempo oppure queste cose ci sono sempre state? Insomma la frittatona di patate e cipolle che si portava a Ostia un tempo dove tutti però erano felici e forse un pochino più educati, oggi acquisisce nuove tendenze tecnologiche col cellulare, per dire. Forse sì, acquisisce tendenze un po' più tecnologiche che apparentemente sono meno invasive, ma in realtà no, perché comunque succedeva che una volta magari la mamma uno scapaccione al bambino maleducato lo desse, invece adesso la mamma, siccome magari è impegnata a parlare al telefonino, lascia che il figlio faccia un po' quello che desidera senza criterio. Quindi forse un pochino la situazione è peggiorata, nel senso che c'è meno attenzione, meno sensibilità alla soglia di maleducazione e quindi si lascia un po' più correre, ecco, specialmente coi bambini, perché io non parlo per Ernesto, io ho due figli, quindi non lo dico perché mi diano fastidio i bambini, però mi accorgo che spesso coi bambini le soglie di tolleranza sono molto diverse, mentre una volta forse su questo punto si era tutti un pochino più severi allo stesso modo. E poi c'è questo dettaglio che sono sempre, per noi italiani almeno, se uno ascolta le conversazioni o chiacchiera, sono sempre gli altri quelli maleducati in tutte le situazioni. Noi stessi non lo siamo mai e quindi i figli degli altri sono quelli che ci disturbano, le macchine degli altri sono quelle che sono parcheggiate male, che sono quelle che ci creano i disagi, gli altri sono appunto quelli che ci scrollano il telo, magari noi non ci accorgiamo di quello che facciamo noi stessi, anche noi magari piccole cose che però danno fastidio, ecco. Abbiamo poi sentito i tuoi figli in sottofondo, Francesco. No, non erano i miei. Vabbè, ma insomma, comunque bambini. Quindi noi possiamo assicurare che Eleonora Barbieri, giornalista del giornale, redazione Cultura e Spettacoli, non è contro i bambini. No, anzi, no, se ne circonda. Francesca Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale. Buongiorno. Gli italiani sono più maleducati degli altri? Ma credo di no. Sostanzialmente è lo stesso livello. Perché noi possiamo vedere dal punto di vista psicologico la maleducazione come tre cose: mancanza di decentramento, cioè non rendersi conto dell'effetto che la persona fa sugli altri con il suo comportamento, disregolazione della vergogna, nel senso che la vergogna è un'emozione sociale che serve appunto ad evitare l'esclusione, e la conseguenza di questa maleducazione è l'esclusione dagli altri che sono presenti e che non condividono questa modalità, e poi la bassa consapevolezza delle conseguenze. L'azione del maleducato non è consapevole di quello che succederà dopo a lui e al suo gruppo di riferimento. E la presenza di questi tre fattori è comune in tutte le culture. Non credo che gli italiani siano più maleducati degli altri. 349-238-6666, molti vostri sms. Questi comportamenti, dice Max da Pinerolo, sono un dato di fatto. Io non li sopporto e faccio le ferie in altri periodi o in posti alternativi anche sulla porta di casa. Per me, in che giro, un altro radioascoltatore ci scrive molto a piedi, la cosa più odiosa è il lancio della gomma da masticare o della cicca di sigaretta accesa. Facendo un confronto fra nord e sud, il problema è più accentuato al sud per una questione culturale, dice un altro radioascoltatore. Tonio invece continua a ribadire la storia dei mozziconi abbandonati. Eleonora Barbieri, insomma, abbiamo visto, i nostri radioascoltatori dicono che addirittura c'è una differenza tra nord e sud. È così? Io spero di no. Spero di no. È un po' eccessivo, nel senso che ognuno si lamenta del posto che frequenta, probabilmente. Se uno va in vacanza al sud si lamenta forse di quello che trova al sud, se uno va in vacanza, per esempio io sono in Liguria, che al nord si, diciamo, racconta la situazione che trova al nord. Secondo me il livello di maleducazione è uguale ovunque. Semplicemente dipende anche dal grado di affollamento dei luoghi che si frequentano, perché forse se la spiaggia è molto ampia, i lettini sono molto distanti, c'è più spazio, c'è meno incontro anche con i vicini e quindi forse si riesce a convivere meglio. Però la maleducazione si riscontra anche in mare, per esempio se uno fa un giro in barca dove in teoria, insomma, dovrebbe incontrare meno persone, in realtà ha tantissime occasioni di incontrare dei maleducati, persone che non rispettano la distanza, per esempio quando si ha ancora la barca, e che quindi si avvicinano alla tua barca anche se tu avevi parcheggiato prima, persone che vanno, magari si incrociano, persone che vanno nude in barca in mezzo alla gente, magari non tutti gradiscono, che fanno in modo di creare onde, magari vanno molto veloci e quindi creano onde per far poi dondolare tutte le barche più piccole a cui passano vicino. Insomma, la situazione è un po' sempre la stessa. Che ascoltano la musica a forte volume magari alle 3 del pomeriggio, quando le altre barche, nelle altre barche si vuole dormire. Diamo il benvenuto a Silvia Campese del secolo XIX, e dico subito, un radioascoltatore ci scrive che, ma che spiagge frequentate? In Liguria, semplice spiaggia attrezzata, tutti educati, nessun problema di sorta. Allora, te che sei giornalista del giornale di Genova, è così? In Liguria sono tutti quanti perfetti, precisi? Buongiorno a tutti voi. Ma forse il vostro radioascoltatore è stato particolarmente fortunato, perché invece a quanto pare noi abbiamo diverse segnalazioni di liti tra vicini di ombrellone, tra turisti, tra anche liguri che vanno al mare, e la situazione non è così rosea come traccia il vostro radioascoltatore, al punto che abbiamo realizzato in questo periodo un servizio ascoltando il presidente dei bagni marini della Liguria e della nostra provincia di Savona, ma di tutta la Liguria, e abbiamo stilato una sorta di elenco dei gesti più fastidiosi e ripetuti, e soprattutto delle situazioni che destano un casus belli, delle liti che a volte si risolvono facilmente tra i vicini, ma che a volte vengono invece riferite al titolare dei bagni, che si trova in situazioni piuttosto imbarazzanti perché deve riuscire a placare, a far da paciere tra clienti che in teoria, insomma, hanno gli stessi diritti. E le situazioni imbarazzanti sono tantissime, e in questo nostro elenco di 10 punti al primo posto sicuramente viene riferito da tutti i titolari dei bagni marini proprio il tema della rumorosità del vicino di sdraio, il fatto che come dicevate prima, i nuovi mezzi, i telefonini, gli smartphone si vengano trasformati in radio, semplicemente vengano usati da telefoni ma con conversazioni ad altissimo volume, è una delle cose più fastidiose che possa accadere tra vicini di ombrelloni. Seguiti immediatamente, ed è questo l'altro tema che causa liti pesantissime tra vicini di sdraio, è la pallonata, cioè anche il racchettone. il racchettone, guarda, nelle spiagge della Liguria quest'anno si sta diffondendo tantissimo il beach volley, è ormai diventata una vera passione dove si gioca in quasi tutti gli stabilimenti a beach volley, non tutti gli stabilimenti però hanno gli spazi per permettere il gioco, e la pallonata che ti arriva quando sei sdraiato al sole per rilassarti è veramente insostenibile. Per questo ci sono il presidente dell'Associazione Bagni Marini della Liguria, Enrico Schiappapietro, suggerisce sempre di cercare di specializzare ogni bagno, cioè il bagno che ha maggior spazio deve recintare la zona dedicata al beach volley e quindi cercare in questo modo di disturbare il meno possibile, ma questo non avviene. Non avviene. Francesca Aquilar, abbiamo sentito queste nuove tendenze che disturbano molto la quiete in spiaggia, il beach volley, i racchettoni. Come si può coniugare pace sotto l'ombrellone, una persona che vuole leggere un giornale, che vuole leggere un libro perché magari durante l'anno ha poco tempo, e magari gli sport acquatici, marini, i bambini che urlano, perché i nostri bambini, diciamolo, urlano un pochino più degli altri, hanno dei decibel un pochino più alti degli altri bambini, come si può fare? Ma in realtà si tratta di favorire sempre più un'emozione sociale di vergogna, ma anche di invitare le persone a ricordarsi di come funzionano alcune spiagge. C'è anche un problema di memoria di lavoro in termini tecnici. Se io so che quella spiaggia è particolarmente affollata, che è particolarmente piena di bambini rumorosi, se è particolarmente piena di sportivi che fanno il beach volley, e allora è difficile che io possa sentirmi soddisfatto se non mi ricordo di questa notizia. In qualche modo è come se le persone potessero disporre di un'autoregolazione delle proprie azioni, e anche quelli che si lamentano molto fortemente della maleducazione in spiaggia spesso non fanno lo sforzo di sintonizzarsi rispetto al luogo dove stanno andando. Quindi è una dialettica continua: da un lato si tratta di aumentare alcune piccole regole per favorire la convivenza e questa intimità fisica non voluta con degli sconosciuti, perché il punto centrale della spiaggia è che è un posto dove c'è un'intimità fisica non voluta con degli sconosciuti. Ovviamente questo implica delle limitazioni della libertà, e coloro che preferiscono leggere un libro in assoluta solitudine ovviamente farebbero meglio a non scegliere le spiagge iperaffollate di cui parlavamo prima. Elena Barbieri, un radioascoltatore, ci dice anche il cane dei vicini di sdraio infastidisce. C'è anche questo tema poi degli animali in spiaggia. Anche questo tema è vero, quello dipende però anche dalle regolamentazioni della spiaggia. In questo quello che appunto è stato appena detto in trasmissione è fondamentale: se uno non tollera di avere vicino un animale, forse dovrebbe frequentare una spiaggia che non li ammette, perché poi chiaramente credo sia molto difficile pretendere che il cane del vicino sia accucciato sotto il suo lettino per tutto il giorno, insomma è impossibile, come se un bambino stesse immobile per tutta la giornata, è impossibile, Quindi certo dipende sempre dal proprietario come si comporta, ci sono persone più o meno educate, però in quello forse uno diciamo deve cercare anche il posto adatto a sé. Vorrei solo aggiungere un piccolo esempio prima che si pensi magari che solo i bambini disturbano, però a proposito anche del livello di tolleranza nei confronti degli altri, per esempio io ho notato che ci sono molte signore che hanno poca simpatia magari verso i bambini e anche signori che sono abituati a giocare a carte. Voi sapete che la spiaggia è anche un luogo diventa spesso un luogo per giocare a carte tutto il pomeriggio. Quello che io ho notato è che per esempio quando questi signori o signore giocano a carte, se per caso dei bambini si mettono a giocare a carte e occupano il loro spazio vitale, loro si innervosiscono. Quindi insomma, allora, anche questo il burraco divide moltissimo. Silvia Campese, giornalista del Secolo, ringrazio intanto Eleonora Barbieri, giornalista del giornale Redazione Cultura e Spettacoli, e invece Silvia Campese, giornalista del Secolo XIX. Allora, abbiamo sentito la vostra lista, scendendo dopo la beach volley, che cosa disturba? Sì, guarda, dopo la beach volley a disturbare tantissimo è il tema delle prime file che si trovano davanti una barricata di lettini, di sdraio, di persone che con l'asciugamano si posizionano precisamente davanti a loro, e questi magari è dall'inizio della stagione che si erano prenotati la prima fila per godersi il mare e rilassarsi, e invece si trovano questo muro di persone che spesso si muovono, si alzano, ed è un altro tema che innervosisce tantissimo. Poi naturalmente c'è il tema della sabbia alzata, di questo anche ne avete già parlato, cioè il bambino che fa il castello di sabbia, che fa il buco, e la signora accanto magari si è appena spalmata, incremata, e si trova tutta la sabbia che aderisce perfettamente alla crema appena spalmata. E poi naturalmente un altro tema che diventa pesante, e questo è curioso, il tema sempre legato agli spazi vitali, e al sesto posto, chi pensa di aver affittato la cabina, di trovarsi un coinquilino solo, e invece si trova con una cabina completamente invasa e che quindi si trova con uno spazio vitale decisamente limitato rispetto a quanto pensava di avere. E poi l'elenco prosegue con al settimo posto il tuffo che solleva troppi schizzi, magari per le persone freddolose. Gli schizzi, sì, è terribile. I bambini che si buttano mentre la persona sta entrando in acqua, piano piano. Esatto, che magari cercava di acclimatarsi con calma. E poi altra cosa fastidiosissima, quando sei in coda per prendere un gelato, un panino, e il bambino, ma in questo caso sappiamo tutti che non sono solo i più piccoli, ti passano davanti sgattaiolando e superandoti dopo che tu avevi rispettato la fila. E poi c'è un altro tema che ci segnalano anche i più ecologisti, ma è giusto che sia così, al nono posto della nostra classifica ci sono coloro che lasciano i rubinetti aperti, e quindi da una parte c'è lo spreco dell'acqua che è fastidiosissimo, e poi insomma è un gesto di inciviltà. E all'ultimo posto, ma dulcis in fundo, ma è comunque uno dei temi parecchio segnalati, è quello delle effusioni amorose pubbliche sui lettini, giovani che magari si vengono colti da questo amore in riva al mare e che iniziano insomma a abbracciarsi anche in modi un po' spinti e infastidiscono insomma chi non gradisce effusioni, assistere alle effusioni, esatto. Emanuela Confalonieri, psicologa, docente di psicologia dell'adolescenza e dello sviluppo. Stiamo diventando un paese per vecchi perché non tolleriamo più i bambini, perché non tolleriamo, come abbiamo sentito da Silvia Campese, magari due giovani che si baciano in pubblico sulla spiaggia, oppure i nostri bambini hanno dei decibel insostenibili rispetto a quelli degli altri paesi europei? Buongiorno a tutti intanto e una buona mattinata. Sì, sentendo un po' questa l'ultimi posti, diciamo, nella classifica proposta, mi veniva un po' da dire che sì, forse c'è in generale un po' un livello di tolleranza un pochino abbassato rispetto ad una volta, è anche vero che forse una serie di comportamenti una volta non si avevano, per cui è come sempre un po' da vedere il doppio fronte. In generale credo di sì che le persone vadano a cercare forse dei luoghi sbagliati, perché una spiaggia di per sé porta una serie di comportamenti, una serie di vicinanze, una serie comunque di situazioni dove inevitabilmente o io mi metto col cuore in pace di stare insieme agli altri, avere gli schizzi, la sabbia eccetera, oppure forse devo cercare un altro posto dove fare vacanza. Un po' provocatorio quello che dico, però come dire, non mi sembrano comportamenti così imprevedibili, no? Quindi uno va, certo, in vacanza la sognerebbe magari un po' diversa, però ecco, forse una maggiore attenzione, devo dire, verso i bambini, ma anche verso gli adulti, perché spesso sono anche i comportamenti adulti che ci danno un po' fastidio. Questo in generale. Rispetto ai bambini, sì, è vero, forse i bimbi sono un pochino più vivaci, un pochino meno rispettosi. Io non generalizzerei. Non generalizzerei neanche soltanto rispetto al bambino straniero. Non dimentichiamo che un conto è essere a casa propria, no? Quindi fare le vacanze nel proprio paese, un conto farle in un paese che comunque non è il proprio. Un po' come il bambino a casa e il bambino a scuola. A casa ci si permettono una serie di comportamenti che a scuola, poi avvertendo un contesto un po' diverso, spesso i bambini non si permettono. Quindi un po' c'è questo, cioè la lingua è la mia, è il posto dove vengo da anni, intorno a me ci sono persone che conosco e questo mi fa sentire a mio agio. È un bambino a proprio agio, è un bambino che grida, è un bambino, non dico che fa i capricci, che già andiamo su un cotè un po' diverso, ma è un bambino che si diverte, è un bambino. Il bambino straniero può essere che avverta anche un po' un contesto che non è il suo e che quindi in questo modo rimanga un pochino più urli più di meno. Contenuto. Marco Carminati, esperto d'arte, giornalista, caposervizio, responsabile delle pagine di arte, architettura, design e beni culturali dell'Inserto, Domenica del Sole 24 Ore. Un altro tema sono i turisti stranieri. Sono maleducati quando vengono in Italia, si ubriacano, dormono sul sagrato delle chiese? Ma insomma, sì, ogni tanto può capitare che qualcuno cerchi di arrangiarsi come può e vivendo noi in una nazione piena di città d'arte, un sagrato di una chiesa o una loggia può essere un riparo sicuro per la notte. Però in generale mi sembra che anche in questo settore, diciamo che la maleducazione nel senso brutale del termine non esista, perché le persone tendenzialmente visitano i nostri monumenti, i nostri musei, quelli più accreditati e più assaltati hanno delle file davanti, le persone fanno la fila abbastanza tranquillamente, visitano abbastanza in silenzio, perché bisognerebbe entrare nei musei come nelle chiese in silenzio, e soprattutto fanno quello che si deve fare, cioè non toccano le opere, anche se a me viene un po' da ridere quando vedo i cartellini vietato toccare le opere, perché so che gran parte dei nostri musei sono stati realizzati con alle spalle dei viaggi rocamboleschi dove le opere hanno subito di tutto e di più. Per esempio i marmi del Partenone che noi andiamo a vedere al British Museum sono finiti sott'acqua perché durante il viaggio da Atene a Londra la nave fece naufragio e dovettero per anni ripescare nel mare i pezzi che adesso noi guardiamo senza litare davanti. Ecco. In generale quello che è pericoloso è la noia. Noi abbiamo tante persone che si annoiano e alcuni di questi per ammazzare la noia per esempio si arrampicano sulle sculture, e questo è, ogni tanto le cronache ci riportano casi di persone che per gioco, per scherzo, per noia si arrampicano per esempio sulla Fontana dei Fiumi di Bernini a Roma o su Biancone di Firenze e facendo questo staccano delle dita alle statue, perché le statue non sono state fatte per fare esercizi di arrampicamento. Trekking, sì. Ecco. Quindi insomma c'è questo tema. Una cosa, Marco, hai visto anche ci sono state queste turiste che si sono fatte il bagno al Fontanone a Roma, quindi appunto. C'è questo utilizzo un pochettino vagamente improprio di queste di opere d'arte, anche se poi in passato al Fontanone facevano abbeverare i cavalli e la gente andava al Fontanone non per vedere la statua ma per prendere l'acqua. Certamente bisogna appunto cercare di vivere, come è stato detto anche in altre persone, rendendosi conto che non si è a casa propria, che si è in uno spazio pubblico, e tentare di rispettare il più possibile naturalmente il luogo dove si è, cioè non buttare per esempio per terra le cartacce, perché la cartaccia è sempre un insomma elemento di vari accorgimenti. Adesso diamo la linea alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Ma cos'è quest'estate? Firenze, quartiere di Santo Spirito, una delle mete preferite dai giovani turisti in cerca di svago. A differenza dei loro paesi, in Italia sono liberi di bere alcolici a dismisura, fino a quando, colti da un improvviso bisogno di andare in bagno, preferiscono le piccole strade alle toilette dei locali. Questa strada diventa il bagno pubblico di Piazza Santo Spirito, perché è più semplice nascondersi dietro le macchine in questa strada che è piccolina, buia, non c'è tanto transito di macchine, e fare i propri bisogni. Lasciano tutto sudicio le strade, mangiano senza grati della chiesa. Buttano tutto per terra. E noi abbiamo visto in questa piccola, in questo servizio dell'area che tira dalla 7, quello che fanno i turisti per strada. Paola Carra, fondatrice di Retake Roma, un'organizzazione no profit, lei fa l'insegnante nella vita, ma il sabato e la domenica si mette guanti, spatole, e che cosa fate? Andate a ripulire la città? Sì, pronto, buongiorno, io sono una cofondatrice di Retake Roma, che è un movimento spontaneo nato dalla volontà di una serie di persone che nemmeno si conoscevano, e incredibilmente a Roma è successo che una serie di persone hanno sentito l'esigenza di fare qualcosa al di là di lamentarsi sempre. Lo stato della città è uno stato di grande abbandono, di grande sporcizia, per cui a un certo punto spontaneamente delle persone hanno preso degli arnesi e hanno cominciato a darsi da fare oltre che lamentarsi, rendendosi conto che in effetti si può fare per cambiare lo stato di una città che in parte è abbandonata dai cittadini stessi. Così nasce nel 2009 questo movimento, perché poi ci siamo conosciuti, eravamo 3-4 in città, ora siamo più di 36.000. Ma che cosa fate materialmente? Materialmente che facciamo? Dalla pulizia degli oggetti di arredo urbano, proprio con spatole, con detersivi, usando dei guanti, pulizia delle strade, ma tagliamo erba, erbacce, togliamo le scritte vandaliche sui muri, collaboriamo fattivamente con l'amministrazione, quindi con i corpi dei PIX e con l'AMA, quindi c'è un patto di collaborazione tra cittadini e la pubblica, cioè l'amministrazione della città. Quindi ripulite. L'idea è proprio quella della manutenzione condivisa dei beni comuni. Marco Carminati, abbiamo sentito, ecco, Paola Carra, abbiamo sentito i turisti che vengono maleducati nella movida, anche nella movida, ma non solo, che fanno alle volte i loro bisogni open air. C'è anche una maleducazione nei musei, perché mi dicono anche che a Parigi, per esempio, si creano delle file perché i turisti cinesi si fanno i selfie davanti al quadro che magari poi nemmeno guardano veramente. Ecco, quella è una delle classiche, veramente la maleducazione, nel senso della non educazione, cioè quella di andare nei musei o nelle rovine eccetera senza capire nulla e quindi senza essersi minimamente preparati, attratti solo da queste straordinarie, celeberrime icone come può essere la Gioconda, la quale come sapete si trova in una delle sale più grandi del Louvre, ma se uno è più basso di 1,80 m tendenzialmente non la vede, perché davanti c'è questo muro umano di persone con le braccia alzate che fanno i selfie. D'altronde è un, diciamo così, è proprio il fatto che sia così famoso a generare questo gesto, che non è un gesto di maleducazione, è un gesto spontaneo per rapire questo istante di una immagine così, così famosa. Ed è proprio appunto il non essere ben preparati, uno degli aspetti secondo me che rientra nella maleducazione del turismo, perché appunto se uno fosse ben preparato non oserebbe scrivere su un monumento, non bisognerebbe scrivere da nessuna parte per la verità, ma ogni tanto capita che con una bomboletta si scriva su una facciata di una chiesa eccetera, e naturalmente non si sporcherebbe luoghi dove appunto l'importanza storica, l'importanza archeologica, l'importanza artistica è tale che non bisognerebbe nemmeno avere la distrazione di far cadere un fazzoletto di carta. Ecco, questo è uno degli aspetti, bisognerebbe andare preparati, i turisti dovrebbero minimamente prima di partire rendersi un po' conto di dove vogliono andare, cosa vogliono vedere, e questo porterebbe a un maggiore, penso, a un maggiore rispetto. Marco Carminati, tu hai visto che i murales stanno esplodendo anche in città, a Roma ci sono delle intere aree che si cercano di recuperare attraverso dei murales, vecchi palazzi in periferia, e poi c'è questa iniziativa sul Lungotevere di un murale di 550 metri di William Kentridge, che è fatto proprio con la sporcizia, no? Lui ha pulito, lo spieghiamo ai radioascoltatori, il Lungotevere, e ha lasciato lo smog per creare la lupa, per creare varie una sorta di storia di Roma, sì, lungo il greto del Tevere, sì. Quando è che diventa un atto vandalico invece scrivere sui muri? Beh, insomma, diciamo che quando non è un artista a mettere mano, noi sappiamo che c'è tutta un'arte spontanea che ha una dignità culturale naturalmente riconosciuta, tuttavia il confine tra la dignità culturale e l'imbrattamento è abbastanza labile. Scrivere sui monumenti con scritte incomprensibili che non siano, diciamo così, come quella che ha fatto Kendrick, che sembra una colonna traiana stesa, è un atto vandalico. Purtroppo è una tradizione di secoli quella di scrivere sui muri. Noi abbiamo scritte antichissime sugli affreschi di Giotto, abbiamo scritte antichissime perfino nelle stanze vaticane. Perché? Perché era normale che i turisti, anche gli umanisti, anche i pellegrini, scrivessero il loro nome incidendole più delle volte proprio sulle pitture, cosa che se noi oggi tentassimo di fare verremmo arrestati immediatamente. Sulla piramide di Cheope, per esempio, in alto ci sono un sacco di iscrizioni incise nella pietra, perché chi era riuscito a scalare la piramide fino in alto lasciava il suo ricordo. Quindi è una tradizione paradossalmente culturale quella di lasciare la propria traccia. Pensate che qualche volta si è potuto capire e datare gli affreschi grazie a queste scritte spontanee. Oggi però il fenomeno porta naturalmente evidentemente a un degrado della città, perché tutte le vetrine, tutte le clair dei negozi, tutti i palazzi delle città, eccetera, imbrattati da queste scritte, certamente non sono da ascrivere a un fenomeno artistico contemporaneo, ma a una grande maleducazione. Paola Carra, fondatrice di Retake Roma, abbiamo sentito. Lei quante scritte ha cancellato sui muri durante questi anni? Noi abbiamo cancellato decine e decine di scritti, di scritte anche su monumenti, addirittura sulle automobili oramai. È anche per me è un segno di inciviltà e soprattutto di inconsapevolezza del fatto che la città è anche un patrimonio comune, quindi non è il fatto della scritta, è un fatto del tutto individuale, un voler lasciare la propria impronta dovunque, non consapevole del fatto che gli spazi sono comuni, per cui si è anche responsabili nei confronti degli altri cittadini. Noi entriamo moltissimo nelle scuole, abbiamo così l'idea di riuscire a entrare in tutte le scuole di Roma facendo proprio questo lavoro educativo sui ragazzi e costruendo un nuovo modello di cittadinanza più consapevole, più solidale, e solidale anche nei confronti delle istituzioni. Di scritte ne togliamo in tutti, ma ormai siamo diventati anche molto specializzati, però volevo dire questo: noi la nostra obiettivo finale non è certo in realtà ripulire tutta Roma, ma educare i cittadini. Quindi i nostri eventi sono come dei flash mob per riportare alla ribalta il tema appunto della cittadinanza attiva, responsabile, e di uno stato di degrado che forse non è più visibile a tutti, anche se tante persone oramai si stanno attivando, perché non sopportano più di vivere in una città così abbandonata e brutta proprio. In tutti i quartieri di Roma abbiamo circa 70 gruppi, ma il movimento è nato in tante altre città d'Italia, quindi è un wave pauroso che attraversa tutta la penisola. Lei ha mai pulito, per esempio, Ponte Milvio? Perché ha visto adesso a Parigi, Parigi si è schierata contro i famosi lucchetti dell'amore e a Ponte Milvio rischiava praticamente, non dico di crollare, però insomma c'era questa situazione molto grave. Adesso com'è la situazione? Questi lucchetti sono stati tolti? Insomma, liberiamo l'amore pure? Diciamo sì, sono stati tolti, ma si cominciano a vedere anche in altre città, per esempio in California ho cominciato a vedere, mi è capitato qualche anno fa di vedere dei lucchetti. La cosa mi ha preoccupato moltissimo. A Ponte Milvio effettivamente la situazione era insostenibile, sono stati tolti, abbiamo fatto un evento nel 2010 che fu un evento enorme su tutta la piazza e ora devo dire, cioè, l'evento ha avuto un effetto benefico, nel senso che la piazza, diciamo il giardino centrale, hanno piantato degli alberi e resistono, però rimane tutta la parte intorno alla piazza dove continuano le persone a lasciare bottiglie per strada o in tutti gli anfratti, immondizia di ogni tipo. Italiani o stranieri? Tutti, italiani e stranieri. Cioè gli stranieri quando vengono in Italia si adeguano allegramente, sì, all'abitudine. E noi, dunque, io devo dire una cosa, noi faremo il nostro lavoro sui cittadini perché sono i primi a imbrattare, cioè, però dall'amministrazione fino ad ora non abbiamo visto nessuna azione veramente incisiva per bloccare tutto. Cioè questo. Le multe, devono scattare le multe. Se secondo me sì, ora non dico un regime di controllo, no, però cioè, una persona che mi va a taggare, non so, le mura aureliane, insomma, non si può assistere a questo in maniera così, cioè non si può non avere una reazione, capite? Ci deve essere una reazione da parte dell'amministrazione, questo è quello che noi chiediamo. Stiamo facendo un grandissimo sforzo per questo è il vostro input. Marco Carminati, abbiamo sentito Paola Carra che ci diceva addirittura scrivono sulle mura aureliane, abbiamo capito, sulla piramide di Giza, come ricordavi te, c'è chi è arrivato fin lassù, però la situazione sta diventando insostenibile. Secondo te c'è bisogno di rigidi controlli anche per esempio sui padroni dei cani che non raccolgono gli escrementi e sui writers, oppure si va verso uno stato di polizia? Io insomma spero che non si debba arrivare a questo, anche perché le forze dell'ordine sono quelle che sono e non ricorrere uno che ha il cane che non si comporta bene con il proprio cane diventa quasi un paradosso. La cosa da fare veramente, visto che per spesso le persone che fanno queste cose o che imbrattano i muri o che lasciano le bottiglie sono ragazzi giovani, di poter agire magari nelle scuole, cioè quando sono a scuola prima di andare in vacanza venga dedicata un giorno, comunque un discorso fatto chiaramente da tutti gli insegnanti per cercare di capire che danni si possono fare magari semplicemente facendo un gesto che sembra non fare male a nessuno, come quello di attaccare un lucchetto perché ci si è innamorati della vicina di Ombrellone, per esempio alle Cinque Terre dove c'è quella famosa Via dell'Amore, una strada meravigliosa panoramica, però purtroppo chiamandosi Via dell'Amore è appunto piena di questi lucchetti e chi non ha se portato il lucchetto addirittura annoda dei fazzoletti di carta o di carta igienica, quindi creando un degrado spaventoso. Bisognerebbe insistere anche a livello educativo, cioè queste persone comunque prima di andare allo stato brado in Italia o all'estero vanno a scuola, di dare un po' di attenzione e di spazio a questo argomento, perché un gesto appunto come quello di prendere una bomboletta e scrivere su un muro può essere deleterio, perché se questo muro appunto è il muro delle mura aureliane si fa un danno enorme alla collettività. Non credo che ci sia un'altra possibilità, perché controllare tutto penso che sia praticamente impossibile. Certo, in estate tenere un occhio aperto anche da parte delle forze dell'ordine, di chi è preposto all'ordine pubblico, è auspicabile. È auspicabile. Questo occhio è meglio, sì. Linea alla viabilità. Ma cos'è quest'estate? Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella Toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna. Ma non è della Francesca? Sì, c'è ragione, di Piero della Francesca. Insomma, di tutta questa gente qua, no? Niente. Un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portava addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no, cioè erano quasi diventati un peso, no, per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no? Scarpe, camici, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte stavi? A un certo punto, come ci spiega Carlo Verdone in Un sacco bello, ci si spoglia di tutto. Perché? Perché si vuole vivere in natura. Allora, le tendenze dell'estate sono proprio dal naturismo al paddle yoga. Carlo Alberto Castellani, organizzatore del Festival Naturista, che si è svolto anche quest'anno a giugno in Maremma, ed editore della rivista Vita Naturista. Perché ci si spoglia? Buongiorno a tutti e grazie soprattutto per l'invito. Ci si spoglia per soddisfare, insomma, un bisogno probabilmente primario, cioè quello di raggiungere idealmente una condizione tanto più vicina a, così, alle nostre origini. Gli abiti sono frutto motivo di necessità, ma hanno anche una funzione, ovviamente, un'origine, una funzione culturale, mentre spogliandosi un po' si azzerano o quasi dei segni, dei simboli che ci portiamo addosso, un linguaggio che comunque è di carattere culturale evidentemente. La necessità di spogliarsi, forse più che mai avvertita in questo momento, ci sono delle ragioni storiche, insomma, che stanno alla base del naturismo e che prevede, attraverso la liberazione dagli abiti, anche la liberazione da condizionamenti, da canoni estetici, appunto culturali, che oggi appunto una parte consistente della nostra popolazione avverte. Ma quanti vengono in Maremma? Quanti vengono in Maremma a giugno? Il festival ha avuto un ottimo successo anche quest'anno. La Toscana di per sé è una regione di elezione, le spiagge della Toscana raccolgono molti nudisti o naturisti che dir si voglia, lì poi andrà fatta qualche distinzione, ma un po' questioni di lana caprina, però la Toscana da sempre raccoglie questi flussi, insomma, ormai anche la Toscana conta un paio di spiagge autorizzate. C'è molto da lavorare perché in tutta Italia ne sono appena 7 di spiagge autorizzate, mentre vi è una forte richiesta, una forte domanda, come si direbbe, di spazi adeguati che purtroppo la legislazione attuale non prevede, perché manca una legge di riferimento nazionale, anche se è stata depositata in Parlamento, ma insomma, non ha ancora avuto. Chiedete una legge nazionale. Anna Meldolesi, giornalista del Corriere della Sera, autrice del libro Elogio della nudità, ha scritto anche sul blog del Corriere: s'avanza un nuovo nudista. Abbiamo sempre l'impressione che i nudisti siano un po' esibizionisti, invece si parla di vita in natura, è così? Sì, assolutamente, ci portiamo dietro molti stereotipi, insomma, in parte appunto figli di alcune rappresentazioni, film, insomma, Pippo Franco e cose del genere. In realtà a volte e spesso, insomma, gli esibizionisti siamo noi tessili, io non sono naturista, insomma, tessile è la parola che usano alcuni naturisti per indicare, insomma, chi va al mare con i vestiti. Credo anzi, insomma, che ci sia un livello di accettazione di naturalezza nel portare la propria nudità da parte dei naturisti, che sia molto diverso dall'atteggiamento con cui invece chi di solito è vestito poi si spoglia, insomma. Per cui gli inglesi hanno due parole diverse per dire nudo, no? Naked e nude. Naked è la nudità naturale, nude è la nudità consapevole. Ecco, insomma, la prima è molto più vicina al naturismo, la seconda invece è molto più vicina magari all'erotismo e al modo che hanno di spogliarsi le persone che di solito vanno in giro vestite. Natale Romeo, gestore del ristorante l'italo-americano a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Lei ha detto a un certo punto: faccio un ristorante per naturisti. Quindi che fanno? Vengono le persone nude in pieno inverno? Non fa freddo? Assolutamente no, non vengono le persone nude in pieno inverno. Cioè, vengono vestite e poi si spogliano all'interno del locale. Sì, ed è abbastanza un successo, cioè ha richiamato varie persone, sente che questa cosa sta andando, perché francamente sì, è un po' particolare. Sì. Ecco, quanti posti ha il suo ristorante? Allora, la parte retro, dove facciamo le serate, 120 posti. Ah, quindi fate delle serate ad hoc per naturisti? Sì, giusto. E ha un discreto successo. Qual è il menù? Il menù naturista? Sono, ma dipende, sono, variamo, abbiamo menù di carne, menù di pesce, menù vegani. I clienti scelgono alla prenotazione cosa vogliono mangiare. I naturisti sono più vegani? Sono più vegani vegetariani rispetto all'essere carnivori? No, non c'è questa relazione, non c'è questa relazione tra l'essere. Diciamo uno su 15 circa. Un nudista su 15 è vegano. Carlo Alberto Castellani, lei che fa questo festival, quindi abbiamo sentito che c'è la necessità di essere naked, come dice Anna Meldolesi, ma un po' in un paese che predilige l'estetica come l'Italia, vedere poi dei corpi che non sono perfettissimi o magari sono anche un po' in avanti con l'età non è un disturbante? Io sono profana riguardo al nudismo, mi consenta che brutte parole che pronuncia, perché il corpo è appunto, come diciamo, bersaglio, oggetto di del consumismo in tutte le sue espressioni, dall'abbigliamento e via discorrendo. Il liberarsi, il naturismo prevede, appunto, contempla la liberazione da questi condizionamenti, esponendo, volendo proporre l'esposizione del corpo così, tal quale, com'è. Il corpo non è né bello né brutto, non è né giovane, oddio, ovviamente sì, però ecco, questi giudizi attengono più a una questione consumistica che non della quale noi ci vogliamo liberare. Distaccare, nudo è bello anche se si è vecchi. Sì, Anna Meldole... Mi dico. Un'ultima cosa, la realtà, ecco, della così, in luoghi in cui tradizionalmente ci si spoglia, in ambiti naturisti, vi sono persone di tutte le età, bambini, adulti, anziani, e ci si mostra così come è un modo assolutamente liberatorio di condividere questa esperienza, che non ha nulla di morboso, nulla di piccante, diciamo, come talvolta i media più maliziosi cercano di insinuare. Ecco. Anna Meldolesi, giornalista del Corriere della Sera e autrice del libro Elogio della nudità. Abbiamo sentito, è un liberatorio, non importa se si è vecchi, se si è giovani, in un paese come l'Italia, che magari è abituata a Michelangelo, sembra un po' strano, ma non è così. Ma sì, diciamo che con l'arrivo dei vestiti è nato sia il senso del pudore sia un certo modo di enfatizzare le forme fisiche, per cui diciamo che ci siamo fatti un'idea un po' culturale e un po' artificiale di come debba essere bello un corpo. Certamente il fatto è che con la liberazione dei corpi non sia necessariamente diciamo una maggiore accettazione della nudità, questo lei ha assolutamente ragione. Non c'è più e non c'è più soltanto magari un controllo morale sul fatto di spogliarsi, ma c'è un controllo estetico, questo sicuramente è molto vero, ma più fuori dai luoghi nudisti che non dentro. Quando si è dentro, io sono andata a presentare il mio libro al Festival Nudista, io ero vestita, gran parte del pubblico era nudo, devo dire che mi sono acclimatata e abituata a vedere la nudità molto rapidamente. E, per quella che è la mia esperienza, non è neanche vero che sia così imbarazzante essere vestiti tra i nudi, diciamo che ci si abitua anche abbastanza rapidamente. O forse è più imbarazzante essere nuda tra i vestiti. Ti devo salutare perché abbiamo in linea Filippo Lera, istruttore scuola di surf Banzai di Santa Marinella, che invece è insegnante di una delle tendenze di quest'estate, che è il paddle yoga. Abbiamo pochissimi minuti perché siamo in chiusura. Che cos'è il paddle yoga? Paddle è la tavola, no? Del surf, giusto? Filippo? L'abbiamo perso, Filippo Lera. Abbiamo perso Filippo Lera. Allora, tornando invece a Carlo Alberto Castellani, abbiamo sentito, non è così diverso. Allora, abbiamo perso un po' tutti in questa puntata. Ricordo però i vostri sms, che sono stati moltissimi, soprattutto riguardo al fatto che si è maleducati in spiaggia. Molti dei nostri radioascoltatori dicono: a Rimini nei stabilimenti sono molto severi, il fumo delle sigarette e i telefonini sono gli unici inconvenienti, scrive Carla da Roma. Poi molti lamentano il fatto, come Rino da Genova, che ci sono i cani in spiaggia e in mare, si scrollano per asciugarsi e noi dobbiamo cercare le spiagge dove i cani non sono ammessi. E poi ancora ci dite gli stranieri portano la loro cultura, dice Lucia, uno schiaffo per questa frase, perché dobbiamo assolutamente impedire che vengano poi a fare delle cose assolutamente devastanti, come abbiamo visto dormire sul sagrato delle chiese. Io ringrazio Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis e Gloria Guerrera in redazione. Vi do appuntamento domani alle 8:15 con Ma cos'è quest'estate? Linea al giornale radio.